Io mi ricordo collette di Natale, campi di grano ai lati della provinciale, il tragico Fantozzi, la satira sociale. Oggi cerco Luttazzi e non lo trovo sul canale. Comunque sono un bravo cittadino, aggiornato suonerie del telefonino, un bicchiere di vino con un panino, provo felicità se Costanzo fa il trenino, un santino in salotto, lo prego così vinco le nanotto, Gerry Scotti con risotto, ma è Scotto che mi fa diventare milionario come Silvio, col giornale di Paolo e tanta fede in Emilio. Quest'anno ho avuto fame, ma per due settimane ho fatto il ricco a Porto Cervo. Di Natale, campi di grano, ora il grano da buttare. Mi importa poco, oggi io vado al centro commerciale e il mio problema è solo dove parcheggiare. Io sono un bravo cittadino onesto, bevo al mattino un bel caffè corretto, dopo cena al limoncello, in vacanza la tequila, la gazzetta d'inverno ed estate novella 2000. Che bella la vita di una stella marina, Martina o quella della velina, la mora, la bionda è buona e rotonda, finché la barca va, finché la barca affonda. E intanto sto perdendo sulla patente il punto, e un'auto blu mi streccia accanto, che incanto. Svegliare mai più, ti voglio fare vedere che sono proprio un bravo cittadino. Ho il portafoglio di Valentino e l'importante è quello che ci metto dentro. Vado con il vento a sinistra, a destra, sabato in centro, fino a consumare le suole. Ballo canzoni spagnole, così non mi sforzo a seguire le parole. Penso fare all'amore, alla villa di Briatore, la nonna senza ascensore, la donna del calciatore. A quale il male minore? L'onore, Eccellenza Monsignore, ancora baciamo la mano, che bel miracolo italiano. Oh, oh, oh, oh, oh. Ma a me non me ne frega tanto. Oh, oh, oh, oh, oh. Io sono un italiano e canto, e datemi Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto di blu. Amava così tanto i vestiti nuovi che spendeva in essi tutto quello che aveva. Possedeva un abito diverso per ogni ora della giornata. Niente importava per lui, eccetto i suoi vestiti. Eppure non trovava soddisfazione. Il sarto era sull'orlo della disperazione. Disse al re: di aver inventato un nuovo tessuto che cambiava colore e forma ad ogni momento. Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi. A loro il tessuto sarebbe stato invisibile. E pensate